la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon mercoledì 18 dicembre da Oscar Giannino, qui alla versione di Oscar. Oggi parliamo di un tema che ricorre spesso, quello delle proteste nei confronti degli eccessi, delle eccessive pretese dei costi, quindi delle imposte dello Stato, ma lo facciamo con un protagonista, perché è un amministratore pubblico, rispetto alla media italiana, beh, direi anomalo, diverso, singolarmente pronto a condividere le tesi di chi dice quando è troppo e spesso e anche ultimamente, come si suol dire, balzato agli onori delle cronache, perché lui per primo come sindaco di un comune promuove iniziative di protesta pubblica per tentare di fare quello che viene promesso dalla politica ma poi non avviene, cioè di mettere dei limiti alle pretese, alle spese e alle imposte dello Stato. E il sindaco di un comune che sta in provincia di Parma, quindi un piccolo comune, il comune si chiama Berceto, e qualche giorno fa ha comprato una pagina su un giornale locale, la Gazzetta di Parma, in cui ha scritto, tra le altre cose, prima di presentarvelo vi leggo qualche frase per farvi capire meglio il personaggio che è il nostro ospite oggi e su cui ho parlato. Vi chiedo poi di chiamare all'800240024 e vi chiedo, vi piacerebbe un sindaco così? E quindi pronti a chiamare dopo che lo abbiamo fatto parlare. Vi leggo solo qualche frase della pagina che ha pubblicato sulla Gazzetta di Parma. Ecco qua: i miei concittadini di Berceto, con un documento che lo provano, sono stati derubati negli anni passati da carrozzoni pubblici ed enti di secondo grado non eletti dai cittadini per 1818 euro cada uno. Nel 2013 il governo ha preteso da ogni bercetese, con tasse e imposte comunali, ben 1092 euro. Sono furti. Furti, questo è il termine che usa, tant'è che l'appello che lancia il sindaco e a professori, costituzionalisti, avvocati che solo per amore di giustizia mettano a disposizione gratuitamente il loro sapere per difendere il comune di Berceto e i suoi cittadini presso organismi internazionali preposti, obbligando uno Stato alla deriva a raddrizzarsi e a rispettare la Costituzione. Ecco, parole pubblicate dal sindaco di Berceto che è con noi, Luigi Lucchi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, sindaco. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, alcuni potrebbero dire, ma come? Lei è il sindaco, perché protesta contro lo Stato come se non fosse, foste anche voi un ente impositore? Cosa siete? Solo un sostituto di imposta? Vi obbligano a raccogliere le imposte locali per conto dello Stato? È questa la sua tesi? Ha iniziato nel 2011, nel 2012 è stato abbastanza chiaro, nel 2013 siamo diventati dei gabellieri per lo Stato e credo che sia un fatto anticostituzionale, sentendo degli esperti mi dicono che va contro la Costituzione, ci va lo Stato. Io come sindaco vorrei rispettarla, come uomo delle istituzioni vorrei rispettare almeno la Costituzione. E nelle sue proteste fino a questo momento che tipo di reazioni ha riscontrato? Pochissime da un punto di vista politico. Innanzitutto è molto difficile far comprendere alle persone, perché si aspettano sempre che lo Stato sia tutto sommato giusto, anche se contro lo Stato sono arrabbiati, per cui pensano che siano delle fantasie. Pochissime persone sanno, ad esempio, a differenza dello scorso anno, dove tutti sapevano che l'IMU seconda casa il 50% era dello Stato, quest'anno quasi totalità dei cittadini pensa che l'IMU seconda casa sia lasciata ai comuni. Non è vero, il comune di Berceto dà il 30,75% allo Stato e tutti i fabbricati categoria D sono IMU che va direttamente allo Stato, mentre i cittadini pensano che va dal comune, quindi tutto sommato pagavano anche volentieri pensando di avere maggiori servizi, pagando volentieri per modo di dire, comunque più volentieri al comune che allo Stato. Nessuno sa, anche se se ne è parlato molto e ho tentato di farlo capire, che da una tassa, è un'imposta tipicamente comunale come quella della raccolta e smaltimento rifiuti, lo Stato ha applicato una tangente di 30 centesimi al metro quadrato. Lei la chiama tangente perché dice... Tangente, perché ha una tassa imposta comunale che paga un servizio e lo Stato me lo viene a prendere. Non ha più la faccia lui da metterci per dire servono più tasse. Perché il servizio lo dovete organizzare e gestire voi, non lo Stato. Sì, ma per conto dei cittadini, perché è un servizio che deve essere in pareggio. Il comune e gli enti pubblici non dovrebbero guadagnare da questo servizio e non dovrebbero rimetterci. E dovrebbe esserci il gioco democratico di dire Lucchi è bravo a organizzare questo servizio, mi fa pagare poco, il servizio è efficiente, quindi lo rivoto, o altrimenti mi fa pagare troppo, il servizio è brutto, non lo voto. Quindi vanno accanto anche dei meccanismi democratici che credo pericolosi. Non mettono in condizione il cittadino di giudicare i propri amministratori. Senta, negli anni in cui è cresciuta la pretesa dello Stato di, che voi gli faceste da gabellieri, cioè da sostituti d'imposta, come fa con le aziende, i limiti dei trasferimenti finanziari a vantaggio del suo comune, di quanto si sono compressi? Ormai sono pressoché nulli, ma io avrei anche piacere che non ci desse più niente. Ricordate che non ci togliesse dei soldi. Bravo. Però ne continua a parlare, ci mandano le norme che sono dei costi. I miei dipendenti, che sono pagati unicamente dai cittadini del comune di Berceto, con tasse e imposte comunali, lavorano, ho calcolato, oltre il 70% del loro tempo lo dedicano a tutte delle scartoffie dello Stato che non servono nulla per i servizi dei cittadini, anzi li fanno tribolare ulteriormente, però lo stipendio lo prendono dai cittadini del Comune di Berceto, non dagli italiani in genere, dai cittadini del Comune di Berceto. C'è una burocrazia che è mastodontica, io sono preoccupatissimo ogni sera, perché mi piace seguire anche i telegiornali, eccetera, le rassegne stampe, quando sento le dichiarazioni dei ministri, fosse Letta, qualsiasi altro ministro, che dice facciamo queste semplificazioni, statene certi che il giorno dopo al comune arrivano delle direttive completamente diverse che sembra che vivino su Marte, cioè le cose anche sono rimaste, che non c'è niente di semplice in Italia, quelle poche cose semplici trovano il modo di andarle a complicare notevolmente, sono incomprensibili per i cittadini e sono dei costi che sono quelli che fanno rabbia i cittadini. Io vorrei parlare a qualsiasi impresa, qualsiasi datore di lavoro e dirgli il cuneo fiscale niente, non siamo in grado di diminuirlo, soprattutto per le imprese, però ti togliamo davvero della burocrazia, non devi presentare 48 kg di carte per una tettoia. Io credo che qualsiasi imprenditore serio dice guarda, non me ne frega niente del cuneo fiscale, toglimi tutta questa burocrazia che io guadagno lo stesso, risparmio e ho meno nervoso e lavoro con più soddisfazione. Certo che si abbattono un bel po' di costi che l'impresa deve organizzare per ottemperare questo. Oggi girano con 4 avvocati. Non c'è dubbio. È una cosa impossibile. Io credo. Faccia l'esempio concreto di questo, perché lei ha raccontato di questo plico che le è arrivato, che pesa addirittura 88 kg di alto. 88 kg, 1,58 m di altezza. E di che cosa, si tratta? Di questo plico alto, 1,5 m che pesa 88 kg, che cos'è? 8 centimetri, credevo che fosse, ho detto, si sono sbagliati, siccome l'autocamionale delle Tisa hanno mandato a noi il progetto della nuova bretella, quella che deve unire Parma ad Afi vicino a Verona, hanno mandato a noi il progetto. Alla fine questo era un progetto perché tinteggiavano un viadotto, nel senso che gli davano un materiale, una resina che serviva per, non, per salvaguardare il ferro delle vecchie armature. 1,88 m, ma anche questo, voglio dire... Io quindi era tecnici. Un'autorizzazione dovuta per ritinteggiare un viadotto, che c'è già. Bene, io ne avrei dovuto fare 3 copie e portarle anche alla sovrintendenza, avrei dovuto far studiare ai miei tecnici tutte queste cose, in definitiva per la tinteggiatura di un viadotto. Immagini cosa ha speso l'autocisa, sarebbe meglio che costassero meno i pedaggi piuttosto che buttare via i soldi in questo modo. Senta, ma possibile mai che davvero nessuno nell'organizzazione sia dello Stato verticale, dalle prefetture in poi, sia politica nazionale che locale, così via, lei ha la guida di una lista civica, lo dico agli ascoltatori che nel frattempo hanno chiesto, che credendo che lei speculi per una parte, per così dire, lei non ha davvero incontrato nessun tipo di disponibilità, di reazione, no, positiva? No, queste cose qua non le capiscono, ma però porta molti dubbi, poi credo di essere anche autoironico, dico sarò stupido io e non certamente loro, perché non posso vedere solo io queste cose come se sono l'unico che vede che il re nudo come lo vedeva il bambino. E mi sono chiesto tante volte, perché un tempo le leggi erano di buon senso, si poteva essere anche contrario a una legge ma ne capivi il significato. Adesso non capisci. Prendiamo l'esempio della TARSA, al quale io mi sono battuto tantissimo, perché se io l'avessi applicato come aveva lo Stato, chiudevo tutti i miei negozi, tutti i bar e i ristoranti in un paese di montagne dove ci sono delle frazioni dove il bar è una cosa essenziale, un centro per la vita sociale, certo, esatto. Bene, lo Stato alla fine voleva 30 centesimi al metro quadrato, lo dici e dici guardate, sui metri quadrati delle case io devo essere nelle condizioni di prendere 30 centesimi al metro. Bene, invece ha voluto venire a interferire sulle modalità in cui si raccolgono i soldi per il comune, quindi mi ha fatto spostare tutti i ruoli, mi ha fatto andare in anticipazione di cassa, o altrimenti far fallire le imprese che stanno raccogliendo, le cooperative sociali che stanno raccogliendo i rifiuti. Poi mi è voluto venire a dire, adesso lo uso e potrebbe essere anche malinteso, le tue agenzie bancarie, le tue due agenzie bancarie che pagano 800 euro, siccome non producono rifiuti, gliene devi far pagare 200, ha capito? Cioè sì. Mi viene anche a dire come devo far pagare le imposte per un servizio dei cittadini. sono tutte cose inutili. Era sufficiente che dicesse: siamo in una situazione tale che ci vogliono 30 centesimi a metro, ve li prendiamo su e quindi... Ma almeno senza complicarvi la vita, diciamo. Ma senza complicarvi, ma ha fatto delle cose. Un bandito di strada ti impone la taglia, ma non ti dice di quale tipo di valuta pagargli. Il 29 di ottobre, questo è il massimo del ridicolo, sì. Il 29 di ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, dopo tutte le discussioni sulla TARS, io ho tentato anche di farmi vedere da Napolitano in mutande al Quirinale, ma mi volevano anche destituire perché avevo la fascia, e hanno detto: questo qui è il disonore dello Stato, credo che il disonore siano altre cose. Comunque il 29 di ottobre sulla Gazzetta Ufficiale è uscita una leggina che dice: i comuni, se vogliono, possono continuare ad applicare la TARSU. Beh, sono delle prese in giro, come quelle di dire: se i comuni vogliono il bilancio preventivo lo possono fare andare al 9 di dicembre. Che cosa c'è di preventivo? Ma non ci vuole niente. Io lo faccio sempre perché voglio essere a posto prima, altrimenti non avrei la forza di combattere contro tutta questa gente. Se invece io so di aver fatto tutto quello che era necessario per quello che mi riguarda, la mia coscienza, non ho paura di nessuno. Allora, se... Il bilancio preventivo lo approvo sempre nell'anno precedente. Esatto, non a dicembre dell'anno in chiusura. Aspetti Lucchi, Lucchi, la devo interrompere perché abbiamo un minuto di informazione stradale. Aspetti, torniamo tra un minuto, intanto abbiamo strada. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47 primi 55 secondi, qui dagli studi Radio 24 a Milano. La versione di Oscar, abbiamo con noi il sindaco di Berceto, un piccolo comune in provincia di Parma, Luigi Lucchi, che da due anni ha intensificato la sua azione di documentazione ai cittadini del suo comune e di protesta di quanto è, tra virgolette, obbligato a fare dalla sempre più invasiva legislazione dello Stato, che configura oltretutto estrazione di valore dalle tasche dei contribuenti, impropria richiesta crescente dalla parte dello Stato di prelievo su servizi che devono essere organizzati e pagati e giudicati dai cittadini dello stesso comune di Berceto, e lo Stato prende per sé, in più un accrescimento, non un'attenuazione, delle complicazioni burocratiche, e che naturalmente significa tempi, costi ulteriori e distoglimento dei pochi, nei piccoli comuni, pochi dipendenti e impiegati pubblici del comune da quello che dovrebbero fare per la comunità e invece devono fare per ottemperare a norme assurde. Allora, abbiamo qualche telefonata, intanto do rapide risposte agli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi. Stefano per esempio ci dice: io sono un imprenditore edile, mio nonno morto nell'89 diceva che ci volevano più carte che mattoni per costruire una casa, se si vivesse adesso, beh, adesso direbbe che ce ne vogliono molti molti di più. Caro Stefano, altri ci chiedono: ma come mai dicono che non si pignora la prima casa se poi si pignora comunque lo stesso? La risposta è questa: nel provvedimento assunto da questo governo si sono messi dei limiti alla pignorabilità a prima casa e beni strumentali delle imprese, quelli essenziali per la continuità aziendale, ma solo limiti alle pignorabilità direttamente esercitate dall'apparato tributario dello Stato. Basta delegarla a una banca, e siccome lo stesso veto per le banche non c'è, come si dice, fatta la norma aggirata all'istante, per così dire, perché naturalmente le banche non hanno dei limiti su questo a garanzia della propria esposizione nei confronti di coloro a cui hanno fatto impieghi. Allora, prima di tornare al sindaco di Berceto, sentiamo Daniele che ci chiama da Vicenza. Prego Daniele. Ciao Oscar, io volevo farti fare una domanda al sindaco. Volevo chiedere: le problematiche che vive lui le vivono tutti i sindaci d'Italia, perché l'ANCI non fa un'azione comune di tutti i sindaci di protesta fiscale contro lo Stato? È l'unica occasione che hanno, l'unico modo che hanno per realmente far sentire la loro voce. Chiarissima la tua domanda, Daniele. La chiedere al sindaco perché l'ANCI non si fa più sentire, organizza proteste più pesanti. Sentiamo ancora Simone da Arezzo e poi torniamo al sindaco, lo facciamo rispondere. Prego Simone. Sì, salve. Questo intervento del sindaco mi ha fatto venire una mente della mia vecchia Pallino, cioè una sorta di difensore civico nazionale, perché poi bisogna andare anche alle soluzioni, che alle denunce. Alle denunce. Cioè, se esistesse invece di un Senato federale, tutte queste palle per spendere altri soldi e non tagliare come si deve, una sorta di difensore civico con opportuno curriculum, nominato, cioè che vince un concorso, piuttosto anche votato, non so qual è la soluzione migliore, che però raccolga tutte queste denunce e poi verifichi che stia, faccia il mastino ai politici per verificare. E magari Simone anche che lui per primo abbia la possibilità di adire organi poi di giustizia internazionale, la Corte Europea e così. Chiarissima la tua osservazione, Simone. Torniamo al sindaco. Lucchi, sindaco di Berceto, l'ANCI come risponde alle sue richieste? Può fare di più? Perché fa di meno? L'ANCI intanto sono quelle associazioni molto politicizzate, perché è ovvio, e poi sono molto in mano ai sindaci delle grandi città, come può essere anche corretto, può essere giusto, e hanno dei problemi molto diversi e poi riescono poi a trattare con lo Stato e risolvere i loro problemi. D'altra parte abbiamo avuto un presidente, me ne assumo le responsabilità, come Del Rio, che adesso propone di togliere le province, che in definitiva quelle province rimangono. Cioè, voglio dire, sono persone che hanno fatto i sindaci e non hanno capito i loro comuni. Quanto sono d'accordo. E che propone poi le grandi aree metropolitane, portandole il numero a 18, compresa Catania e Messina. No, ma adesso aumenteranno molto di più, perché tutti corrono a fare le aree metropolitane, esatto. E le faranno. Ci terremo le regioni, le province e 20 aree metropolitane, così certo. Il mondo riderà. Il dubbio mi viene che sono coglione io, non loro. Ma no, ma io capisco la sua autoironia, si figuri. No, ma io, autoironia, dico, ci sarebbero delle cose che tutto sommato sarebbero anche abbastanza... Senta, un ascoltatore, prima di arrivare al tema di un ente, un istituto del nostro ordinamento che desse voce e peso giuridico a posizioni come le sue, ma prima di questo... Un ascoltatore chiede, ma perché non chiedi al sindaco se lui per primo sarebbe favorevole a fare mega accorpamenti di comuni e disposto quindi a ridiscutere la stessa esistenza del suo comune insieme a tanti altri piccoli? Che cosa risponde a questo? Io sono d'accordo sulle fusioni, perché dalle fusioni capiscono tutti che possono esistere risparmi. Un'altra cosa veramente assurda invece è il discorso delle unioni dei comuni, dove rimangono tutti i soliti consigli, esatto, comunali, esatto. C'è un altro organismo sopra, un presidente nominato non dalla gente, che comanderà lui e danneggerà ulteriormente i territori. Quindi le fusioni dei comuni hanno una logica, a parte che però bisognerebbe riuscire a far comprendere questo. I comuni vivono e sono pagati unicamente dai soldi, delle tasse imposte dei loro cittadini. Dovrebbero essere i loro cittadini a decidere se questi soldi sono spesi bene per avere il loro comune lì vicino o avercene uno più grande da un'altra parte. Devono essere, di solito chi paga dovrebbe avere ragioni, invece qua chi paga è proprio considerato, adesso non so se si può usare la radio, un coglione. Beh, quando ci vuole, mi prendo io la responsabilità di essere d'accordo con questo. Chi paga e poi chi ha dei diritti democratici non rispettano più nessuno, esatto. Sono queste le cose che trovo assurde, esatto. Anche adesso tutto il parlare dei costi della politica, che è vero, ci sono dei costi enormi, ma non sono costi, sono sprechi, sono dei privilegi. Parole sante. Però dopo ci sono anche i costi della democrazia, esatto, è quello diverso. Tutti contenti di togliere qui, di togliere là, così poi la politica la faranno solo i ricchi o quelli che se lo potranno permettere o che avranno più voglia di rubare degli altri. Di rubare, esatto. Le istituzioni non ci saranno più quelle che servono ai cittadini, ci saranno dei grandissimi organismi che saranno sempre meno sotto controllo dei cittadini. D'altra parte, per 8 anni abbiamo accettato dei nominati, non degli eletti. Io che non dormivo la notte per andare a votare, perché non mi sento assolutamente un qualunquista, quest'anno sono andato al seggio e non ho ritirato le schede. Ah. Però questa legge è stata cambiata da un avvocato che è andato avanti, ha fatto tutti i giorni i giudizi e poi è arrivato... Avvocato Boss di Milano, uno che dal piccolo tutti lo deridevano, perché qui il cittadino non può dire direttamente alla Corte Costituzionale, invece due volte, ma ci è riuscito. È quello che io spero, che sabato 21 di dicembre alle 10 a Berceto succeda, e abbiamo già un grande costituzionalista che è Marcello Cecchetti, docente a Sassari, che ci porterà avanti degli atti, chiaramente da un giudice ordinario, perché non possiamo andare alla Corte Costituzionale. Quindi, cari ascoltatori, qui c'è un sindaco che nel rispetto dell'ordinamento e provandoci tutte le volte che sarà necessario dice: dateci consulenza, cari costituzionalisti, perché noi intendiamo incardinare un giudizio di incostituzionalità su una bella serie di norme che a nostro giudizio ledono il diritto del comune, dei suoi abitanti, il diritto naturale del contribuente sulla capacità contributiva. Quanto mi piace questo sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, mi piace tantissimo, ne vorrei tantissimi come lui. Ci metteranno 7-8 anni. Io non ci sarò più perché fumo delle sigarette, ma almeno qualcosa sarà successo. Io mi auguro che lei ci sia. È più indispensabile gente come lei, di me e di qualunque altro che mi assomiglia. Noi continuiamo a avere Monti che i problemi li creava, Letta che li accarezza, che non risolve niente. Abbiamo delle grandi discussioni su una legge elettorale che basta il sistema proporzionale con uno sbarramento del 7%, non ci vuole mica delle gran cose. Ma dica la verità, qualche partito, magari con i terminali periferici, avrà provato ad abbordare. Darlo per dire dai, no, visto che fai questo, non ci sono più i partiti, tanto è vero che arrivano a farsi rimborsare molto di più di quello che spendono, perché non facendo attività politica non spendono niente, se ne danno di più, e questo sarebbe il nuovo e sarebbe il bello. Bisogna mandarli a casa queste cose qua, ma io non sono un qualunquista, per me la politica è al primo punto, è la cosa più importante che serve ai cittadini e alla politica. Lei quanto tempo dedica alla sua missione di sindaco? Io mi posso permettere perché mi è sempre andato male tutto nella vita, sono lì dalla mattina alla sera e molto probabilmente ho capito solo un 20% di quello che c'è da capire in un comune, perché ho scoperto delle cose che sono stupefacenti, che non ci credevo. Tenga presente, ribadisco che non sono un qualunquista. No, ho però capito. Succedono delle cose che se si riuscisse a trasmettere ai cittadini, credo che si arrabbierebbero, anche se siamo un popolo di evasori, che quindi ognuno di noi crede di salvarsi da solo. Da solo, e invece insieme alla tutela dei nostri diritti. Allora, vi abbiamo presentato questo sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, la via ordinaria e legalitaria a rimettere ordine nel disordine, caotico, pretenzioso, arrogante di Sua Maestà, lo Stato, che si dà ragione da solo. Grazie, continuate a stare su Radio 24, grazie a Luigi Lucchi, come appuntamento a domani. Domani parliamo dello Stato che non paga i suoi debiti e fa fallire imprese di eccellenza, vi darò una testimonianza straordinaria.